In Berachot 28a, Kafchet Aleph, riprendiamo il racconto della deposizione di Rabban Gamliel in quanto Nasi, capo presidente del Sanedrin, del Bedin Agadol, e la nomina di Rabbi Elazar ben Azaria a causa di tutto ciò che era stato il comportamento da parte di Rabban Gamliel con Rabbi Yehoshua. Ora abbiamo visto che Rabban Gamliel ha continuato a partecipare allo studio e alle decisioni alachiche nella casa di studio, nel Beit HaMidrash HaGadol, anche dopo che era stato deposto. E abbiamo visto che, per esempio, nella halakha che abbiamo citato riguardo il convertito ammonita, che la halakha è stata decisa come Rabbi Yehoshua, che quel convertito era come qualsiasi altro convertito e potrebbe sposare qualsiasi donna ebrea, a differenza dell'opinione di Rabban Gamliel, come abbiamo spiegato nella scorsa lezione. Ha visto Rabban Gamliel che il vento favoriva Rabbi Yehoshua e che i Chachamim erano più favorevoli a seguire Rabbi Yehoshua che Rabban Gamliel. Allora ha visto che non era solo una questione personale tra lui e Rabbi Yehoshua, ma che davvero il popolo appoggiava Rabbi Yehoshua, e si è accorto quindi di dover far qualcosa, che si era comportato evidentemente non bene con Rabbi Yehoshua, e di dover far qualcosa per rimettere a posto la situazione. Quindi vediamo nella edizione nuova italiana, pagina 372 al numero 3, il proseguimento del racconto, dove dice: Amar Rabban Gamliel, disse Rabban Gamliel tra sé e sé, Hoil v'hachi hava, visto che questa è la situazione, quindi, come abbiamo appena detto, Ezel v'faesel Rabbi Yehoshua, vorrei andare a fare pace con Rabbi Yehoshua. E quindi andò Rabban Gamliel a cercare dove abitava Rabbi Yehoshua e lo andò a trovare a casa. Chimata Levete, quando arrivò a casa sua di Rabbi Yehoshua, Chazenu vide le ashiata de Vete dim Shachran, vide le mura della casa che erano tutte scure. Cioè la casa era una casa povera, era una casa trascurata dal punto di vista materiale. Marley gli disse Rabban Gamliel a Rabbi Yehoshua, Mikotlei beitecha atanikar shepecha miata. Ma non sapevo cosa facevi tu per lavoro. Sembra dalle mura della tua casa che sei un fabbro, che ti occupi con il fuoco, con il calore del metallo, che era un lavoro molto duro, molto arduo, ma anche non di un ceto sociale molto elevato, no? Chi non aveva trovava altro lavoro, magari si doveva fare questo. Quindi sembrava che Rabban Gamliel si accorge per la prima volta che Rabbi Yehoshua non se la spassa molto bene a livello materiale, a livello del suo sostentamento. Non vuol dire che lui era un fabbro, così sembrava dalla casa. Cioè allora, dall'apparenza. Allora Rabbi Yehoshua risponde con una frase molto dura, a Marley gli rispose, Oilo la dor sheata parnaso. E cioè, che pena per la generazione di cui tu sei la guida, perché sheia ta yodea bezaran shel talmidei chachamim, che non conosci la sofferenza degli studiosi, bamehem mitparnesin u bamehem nizonim, e non sai di cosa sono costretti a fare per il proprio sostentamento e per il loro nutrimento, cosa devono fare per nutrirsi e nutrire le loro famiglie. Come dire, stai in un castello d'avorio? La torre, no? Una torre d'avorio. Stai lì, aristocratico, famiglia importante, benestante, grazie a Dio, legami con i grandi governatori e tutto quanto, mentre i grandi chachamim che stanno con te nel Beit HaMidrash magari se la spassano molto molto duramente, devono fare tante cose, molti di loro avevano dei lavori anche molto umili per poter sostenersi e mantenere le proprie famiglie, e questa non è un buon segno, diciamo, per un leader, no? per una guida. Amarlo, a quel punto Rabban Gamliel venne al dunque e gli disse, io riconosco di aver risposto male a te, di essermi comportato male con te. Meholli, ti chiedo di perdonarmi, ti chiedo mechila, perdono. Rabbi Yehoshua non era pronto a perdonarlo, e la Ashkach Bei non gli rispose, cioè non gli diede il perdono. Chiese ancora Rabban Gamliel, se non lo fai per me, a sé bishvil kevod Abba, fallo almeno per il kavod, l'onore e rispetto di papà, di mio padre o della famiglia, ma il padre anche era Rabban Shimon ben Gamliel, dell'altro, del nonno Gamliel, che era una delle guide durante la distruzione del Bet HaMikdash. Dovrebbe essere quel Rabban Shimon ben Gamliel che è stato ucciso dai romani, uno dei 10 Harugei Malchut, uno dei 10 uccisi dai romani, che era una grande guida di Am Israel, cioè almeno fallo per onore e rispetto di mio padre. Allora a quel punto, a quel punto si è fatto riappacificare Rabbi Yoshua e ha perdonato Rabban Gamliel. A quel punto, visto questo, non c'era più motivo per lasciare Rabban Gamliel, diciamo, deposto dalla sua posizione, visto che si erano rimessi a posto con Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua, allora era possibile tornare a come in realtà avrebbe dovuto essere. Allora hanno detto però, man nezil velemalu rabbanan, chi è che potrà andare a dire ai Chachamim nel Bet HaMidrash di questo sviluppo delle cose, in quanto i Chachamim forse non accetterebbero facilmente questa cosa, che si sono fatti lottare fortemente per l'onore di Rabbi Yoshua, eccetera, adesso dopo un giorno ricambia tutto? Allora chi è che potrà andare a portare questa notizia? C'era lì un certo Koves vuol dire un lavandaio, Amarle ua u Koves a Naselna, ci vado io. Allora Rabbi Yoshua manda un messaggio metaforico, dal quale si può capire appunto lo sviluppo della cosa, con questo Koves, e gli dice, Shalach lu Rabbi Yoshua leve midrasha. Rabbi Yoshua mandò a dire ai maestri nel Bet HaMidrash la seguente cosa. Mande la Veshmada il Bashmada. Colui che indossa il manto, continui ad indossare il manto. Mande la Veshmada, e chi non indossava il manto, Yeimarle le mande la Veshmada, dirà a chi indossa sì il manto, Shelach Madach Vanal Beshei, togliti il manto e io me lo vesto. La metafora è chiara. E lui, Rabban Gamliel, è quello che comunque è degno di vestire il manto del Nasi, che venga uno che non lo è mai stato e dica quello che dovrebbe esserlo, tu toglilo, io lo metto. Questa era la metafora che mandò a dire tramite il messaggero Rabbi Yoshua al Bet HaMidrash. Arrivò questo messaggio al Bet HaMidrash, ma non fu capito bene. Perché? Cioè fu capito, ma non fu accolto bene. Amarlo Rabbi Akiva la Rabbanan, Rabbi Akiva disse agli altri maestri, Teroku Galè, chiudete le porte, chiudete a chiave il Bet HaMidrash, che non si può entrare da fuori facilmente, dell'Oletu Avdei Rabban Gamliel Ulzarul Rabbanan, perché non vengano i servi della casa di Rabban Gamliel e disturbino i maestri. Cioè, potevano pensare che il messaggio era arrivato da parte dei sostenitori di Rabban Gamliel e non da parte di Rabbi Yoshua, non era chiaro. Ok, allora dice, scusa, non è che adesso fanno pressione e ci fanno cambiare le nostre decisioni, noi prendiamo le decisioni dentro al Bet HaMidrash, quindi chiudete le porte e le decisioni si fanno internamente. Allora evidentemente il messaggio non era arrivato in maniera chiara, perché appunto pensavano fosse da parte di Rabban Gamliel, o chi per lui soprattutto. Allora Amar Rabbi Yoshua, disse Rabbi Yoshua, mutav è meglio dei cum veisila nal gabaio, che mi alzo e vado io stesso da loro. Ata tarafa bava, arrivò e bussò sulla porta, amar lehu, e disse a loro, usando un'altra metafora, ma sempre ovviamente con lo stesso significato, e disse così, mazè ben mazè, uno che fa le aspersioni, figlio di uno che fa le aspersioni. Cioè, la metafora è tratta dal concetto del Kohen, che fa le aspersioni di acqua viva, acqua di sorgente che è mischiata con le ceneri della vacca rossa, della parà duma, e che questo fa parte del processo di purificazione dalla tumat met, dall'impurità causata dalla morte. No? Allora, chi può fare? La Torah dice che il Kohen deve fare le aspersioni, deve spruzzare queste acque sulla persona, il terzo e il settimo giorno della settimana di attesa. Allora la metafora, non sul Mizbeach, sulla persona, allora la metafora che usa è un Masè, uno che fa le aspersioni, quindi un Kohen, figlio di uno che lo fa, Ben Masè. Yasè continua a fare le aspersioni, Vesheinò lo Masè, velò Ben Masè, uno che non è né uno che fa le aspersioni, né il figlio di uno che fa le aspersioni. Yomar la Masè ben Masè potrebbe forse dire a chi lo è ed è figlio di uno che lo è, Meimecha Meimearav Efrecha Efer Mikle, le tue acque sono delle acque di caverna e non acqua viva che serve, acqua di sorgente viva che serve per Mai quello, Caim. e le tue ceneri sono semplici ceneri rimasti da qualche fuoco e non appunto le ceneri della paraduma, della vacca rossa, chi può dire una cosa del genere? Allora Rabbi Akiva dice: Ah, allora sei tu che hai fatto, sei proprio te, non è che il messaggio arriva da altre parti. Amari Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Nitpayasta? Rabbi Yoshua, ti sei fatto, hai fatto pace, ti sei fatto pacificare? Allora a questo punto, che l'umma sinu ela bishvil kvodecha, tutto ciò che noi abbiamo fatto non per altro se non per il tuo kavod. A questo punto, se il tuo kavod ora è, diciamo, stato restaurato, diciamo, le Mahar, Ani ve'atan nashkim le pitcho. Allora, in domani mattina, io, Rabbi Akiva e te, Rabbi Yoshua, andremo da Rabban Gamliel e gli diremo: benvenuto, bentornato, torna al Beit HaMidrash come capo Nasi del Sanedrin. Però c'era un problema. Qual è il problema? Cosa facciamo ora con Rabbi Elazar ben Azaria? Rabbi Elazar ben Azaria era stato nominato a Nasi. Ora, Amre, Hechinaved, come possiamo fare con Rabbi Elazar ben Azaria? Perché non può essere, diciamo, rimosso totalmente, perché na avrei, se lo volessimo rimuovere, Gemire, abbiamo una tradizione dalla quale si impara che Malin Bakodesh ven Moridin, che quando si sale nella Kedushah si ascende ma non si scende. Ok? Allora, Rabbi Elazar ben Azaria l'abbiamo fatto salire di livello, non possiamo ora farlo scendere di livello. D'altra parte, forse possiamo fare una sorta di compromesso, e cioè Nidrosh Mar Hadash Abetah, o Mar Hadash Abetah. Una settimana fa le lezioni Rabban Gamliel, una settimana li fa l'altro maestro Rabbi Elazar ben Azaria. Anche questo non è l'ideale, perché a te le cannuie ci potrebbe essere gelosia tra di loro se devono condividere in maniera equa la cattedra. Potrebbe essere un problema. Allora facciamo un altro compromesso, un altro tipo. L'idrosh Rabban Gamliel te la tasha bate, Rabbi Elazar ben Azaria al Hadash Abetah. In un mese, 3 settimane, le lezioni saranno di Rabban Gamliel, e una settimana al mese la lezione sarà di Rabbi Elazar ben Azaria. In questo modo sia ritiene la posizione di capo del Beit HaMidrash Agadol e continua a fare le lezioni, anche se in maniera ridotta, e Rabban Gamliel torna, diciamo, alla sua posizione. Behainu de Amar Mar Shabbat Shelmi Hayetah, e questo è quanto si racconta in una baraita, che sono andati a trovare uno dei Chachamim, e il Chacham ha detto di chi era la settimana, come per dire chi è che fa la Derashah questa settimana, cosa intende? Intende proprio che era in quel periodo dopo questa cosa qui. E la Gemara conclude il racconto, Veotot Talmid, che se ci siamo chiesti chi era quell'allievo che ha fatto scaturire tutto questo, che ha posto la domanda inizialmente Rabbi Yoshua, se la tefilà di Arvit fosse facoltativa o obbligatoria, e Rabbi Yoshua gli ha detto facoltativa, e poi è andato a porre la stessa a Rabban Gamliel, gli ha detto obbligatoria, e da lì è scaturito tutto il discorso. Chi era quell'allievo? Rabbi Shimon ben Yochai Hava. Era il molto noto Rabbi Shimon bar Yochai.